ma guarda, a me non è niente, non è importante. Ma non ce ne sono importante, qua si è bugiardo. Si è bugiardo, ti senti tutto. Ma è l'unica cosa importante, me. Auto è quella vista, auto è l'unica cosa importante, sono scala. Ti senti tutto quanto.